ma dobbiamo parlare di cani al singolare, cioè esistono i singoli individui con i singoli caratteri, pertanto dopo aver deciso più o meno quale razza ci interessa o fa per noi, fa il caso nostro, sarebbe così utile così fare una selezione rispetto al carattere del singolo individuo all'interno di una cucciolata, cioè ecco, è un animale più o meno sociale, sì, più o meno timoroso. Quindi il cucciolo da scegliere, andando a vedere una cucciolata in canile o in un allevamento, il cucciolo che ci incontra il nostro sguardo e che dovremmo scegliere, qual è? Quello che sta bene coi fratellini? Dipende, voglio dire, se uno decide di fare una vita avventurosa, chiaramente prenderà un animale che sia abbastanza forte, dominante, che lo segua nelle sue avventure in giro per il mondo. Se uno è un pantofolaio, probabilmente sarà più adatto a un cucciolo rilassato e tranquillo. Quelli che stanno magari un po' in disparte. Beh, forse non troppo, ecco, perché poi magari è un po' troppo tranquillo. Diciamo che ci sono dei test standard che possono essere fatti e che si trovano normalmente su tanti testi e che possono essere utilizzati anche da persone che non sono iper esperte in questo ambito, però ti danno un po' un'idea di quello che potrebbe essere il carattere futuro. È chiaro che la certezza non esiste, però se uno può, voglio dire, se ha la possibilità di mettere in atto questa scelta, è bene che lo faccia. Mi insegni un test al volo, professore? Ma una cosa banalissima è quello di battere le mani mentre i cuccioli ad esempio stanno mangiando e vedere chi scappa o meno. Io ricordo un episodio, dovevamo scegliere i cuccioli per diciamo una forza di polizia, se non ricordo che menziono quale e come, ma a un certo punto io stavo per battere le mani ed è passato un elicottero, facendo un rumore incredibile e ne è rimasto solo uno. Gli altri sono tutti scappati a raggiera, sono partiti in tutte le direzioni, tranne uno che poi è diventato un bravissimo cane poliziotto. Insomma. Ecco, io la ringrazio per questo consiglio, quindi che diamo alle persone che sono in... È difficile dare una definizione, dare le istruzioni generiche, no? Ogni caso certo. Chiede la sua... Però intanto questo ci dà un'indicazione. D'altronde, professor Zucca, noi ci rendiamo conto che quando il cucciolo entra da noi a casa, dopo qualche giorno capiamo che non è un peluche. Basta poco, perché ci accorgiamo che questi animalini, pur piccoli, teneri, deliziosi, richiedono impegno, costanza, attenzione. Beh sì, è una grande fatica, anche perché sono animali giovani, pieni di vigore, che corrono di qua di là e soprattutto, voglio dire, mettono a dura prova le nostre capacità di, fra virgolette, docenti o genitori, a dirsi voglia. Cioè, dobbiamo capire tanti aspetti della loro vita. Ad esempio, sono pieni di energia, ma sono scarsamente preparati a rimanere attenti per lunghi periodi di tempo, per cui quando noi cerchiamo di insegnare loro qualcosa dobbiamo farlo in maniera molto breve e concisa, deve essere molto chiaro, no? Perché imparare è molto faticoso, quindi la sessione di addestramento deve durare abbastanza poco se il cucciolo è molto piccolo. E poi, professore, noi tendiamo a volergli insegnare tutto e subito. Penso ai cani che vivono in appartamento, vogliamo che non sporchino in casa subito, velocemente, che rispondano ai comandi, che siano pronti a giocare quando vogliamo noi, insomma tante cose, poverini. Sì, tantissime. Il problema è che lo sviluppo cognitivo degli animali va di pari passo a quello dell'uomo, nel senso che ogni soggetto ha i suoi tempi. No? Magari uno è molto bravo e impara subito, un altro ci mette un po' di più, e come nei bambini, no? Anche i gemelli si vede benissimo che alcuni sono voglio dire, più bravi a imparare a fare certe cose, altri ci mettono di più, ma voglio dire, sta a noi capire qual è la tempistica e soprattutto le modalità con le quali noi dobbiamo insegnare loro. Voglio dire, il vivere in ambiente casalingo. Professore, noi oggi, lei citava i bambini, parliamo proprio dei no che fanno crescere i bambini. Anche i cuccioli hanno bisogno però di regole, di punizioni e di gratificazioni. Beh, assolutamente sì, nel senso che noi dobbiamo essere così bravi da cercare di insegnar loro cosa possono e cosa non possono fare. Un cane educato è un cane comodo, un cane felice. E ci sono delle regole molto importanti da tenere presente, cioè noi non possiamo rimproverare gli animali e soprattutto i cuccioli che hanno commesso un'azione che non andava parecchio tempo dopo rispetto a quando l'hanno compiuta. Bisogna fare e dare un rinforzo negativo, un rimprovero, non appena l'animale compie un'azione errata, sbagliata o cattiva, che dir si voglia. La stessa cosa vale al contrario, cioè quando si comporta molto bene bisogna premiare l'animale subito, in maniera tale che associ quella determinata azione con il rinforzo positivo. Professor Zucca, io non so cosa pensa lei, ma io credo che educare un cucciolo sia, è vero, un esercizio impegnativo, ma ricco di soddisfazioni e di scoperte. In un certo senso, in questa relazione, noi scopriamo anche lati del nostro carattere che non conoscevamo a fondo.